e Binotto è ancora lì. Niente dimissioni, niente dimissioni. Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Chiesa è uno dei migliori giovani italiani, questo lo sappiamo, non devo dirlo io. Se devo essere onesto fino in fondo, non è mai esistita una trattativa con la Fiorentina per Chiesa, quindi questo è lo stato di fatto ad oggi. Real Madrid è una possibilità per... No, niente. Niente Real. Niente. Barcellona, basta. Di Blase di renovazione del contratto. È stata una vera e propria irruzione quella della Roma per Kumbulla, il difensore classe 2000 del Verona, corteggiato da tantissimi club di Serie A, ed è solo una delle operazioni del club giallorosso, perché sono stati fatti notevoli passi avanti anche per Arkadiusz Milik. Un accordo quasi raggiunto su una cifra intorno ai 25 milioni con un prestito, con l'obbligo di riscatto che arriverebbe intorno ai 18 milioni più 7 di bonus. Io credo che abbiamo una squadra già fatta, ok? Dopo, se c'è l'opportunità di prendere qualcosa, ci sono almeno 20 giorni ancora. Ma non andare a scrivere che domani prendo un altro. Io te lo chiedo, ma puoi anche dire no comment, se dovesse arrivare il nuovo numero 9 fosse un uruguaiano, no, che hai conosciuto. No comment, ma va, allora ha parlato Andrea ieri, è stato ben chiaro lui, poi per il resto non aggiungo altro. Mi raccomando, Pier, non scrivere che poi domani la Fiorentina ne prende un altro, altrimenti il commisso s'arrabbia. Oppure la domanda a Chiellini sul numero 9 uruguaiano fa molto ridere. Ma credo che fosse fatta per contratto, perché se tu vai lì e non gli fai quella domanda, torni in redazione e ti licenziano, no? Ma esatto. Guarda, hai detto bene questa cosa, quindi c'è un po' inusuale di puntata, ma tante volte insomma le domande si fanno perché appunto non puoi non farle, e tante volte una non risposta, che sai benissimo che è una non risposta, comunque devi strapparla, perché insomma sennò veramente sembra che non ti sei ricordato che per esempio nel caso specifico tutto il mondo bianconero si interroga sul tema del nuovo, certo, attaccante. Certo, no, perché insomma lo spieghiamo a quelli a casa, cioè non c'è niente di personale nella domanda e non c'è niente di personale nemmeno nella risposta di Chiellini, che gli ha detto no dai, lascia stare questa cosa. Ha già parlato Andrea. A proposito di Andrea, non c'è quasi mai qualcosa di personale, sinceramente, per esperienza. A proposito, qualche volta sì, ma raramente. Sì, a proposito di Andrea, che poi sarebbe Andrea Pirlo, adesso fra qualche minuto ne parliamo con Demetrio Albertini, che ieri a Coverciano ha assistito alla tesi di laurea di Andrea Pirlo, che ha preso il patentino Master UEFA Pro. Poteva già allenare prima, questo è semplicemente l'ultimo step di tutta la carriera accademica che porta ad andare in panchina. Allora, tutti i contatti 800 24 00 24, numero verde per intervenire in diretta fino alle 15, 349 238 6666, sms, whatsapp, anche vocali. Dalla squadra mercato di Sky saluto Fabrizio Romano. Ciao Fabrizio. Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Allora, io avevo preparato questa apertura di programma. È partito il valzer degli attaccanti: Milik va alla Roma, libera Dzeko che va alla Juventus, Suarez rischia di restare a casa a studiare italiano, chi ci guadagna? Poi qualche minuto fa mi pare di aver capito, Fabrizio, non so se risulta anche a te, si è bloccato tutto perché Milik non vuole andare da nessuna parte. Ma al momento non ha ancora dato risposte definitive Arkadiusz Milik, quindi io quella linea la terrei, nel senso che non ci sono ancora certezze. Sicuramente fino ad oggi Arkadiusz Milik non ha dato aperture definitive alla Roma, quindi i due club stanno andando avanti, Napoli e Roma, come sappiamo, 25 milioni bonus compresi, un prestito con obbligo di riscatto, tutto pronto, continuano a sperare che Milik possa dare un'apertura nelle prossime ore, quindi non è un discorso saltato, un discorso che rimane in piedi tra Napoli e Roma e di conseguenza con la Juventus che aspetta Dzeko, ma sicuramente tutto passa dal sì di Arkadiusz Milik, anche il futuro di Luis Suarez che giustamente citavi, quindi è sicuramente una situazione in questo momento in fase di stallo, pronta per essere conclusa qualora Milik accettasse, e l'offerta della Roma è un'offerta importante da 5 milioni di euro netti a stagione. Cioè, così così a leggerla sulla carta, Pier, la riflessione che ho fatto questa mattina leggendo i giornali è: ma per quale motivo qualcuno dovrebbe dire di no, a parte Suarez, intendo, Pier? Sì, sì, è tutto incastrato ed è di reciproca soddisfazione. Anche i passaggi, se vuoi, più di comunicazione e di immagine, alla fine sono sostenibili. Sarebbe un dolore per i tifosi della Roma vedere partire Dzeko, ma è anche vero che andava tantissimo, che arriverebbe una soluzione comunque logica dal punto di vista anche anagrafico. Insomma, sarebbe una vicenda, devo dire, perfetta, tonda, quadrata, no, tondo o quadrato, scegli tu, insomma, però perfetta, senza macchie, una win-win, come dicono gli inglesi. Quindi, però poi sai, il mercato, le vie del mercato sono infinite, le trappole, i problemi anche banali possono venire fuori, e quindi insomma dobbiamo ancora aspettare. Ma anche forse, Fabrizio, c'è dietro un po' del carattere degli uomini. Cioè, magari posso immaginare che Milik, che non abbia apprezzato le ultime settimane nel rapporto con il Napoli, se possa anche farla pesare un po', ci pensi, insomma. Sì, qui forse si sente un po' una pedina, no? Si sente un po' una specie di tassello di un ingranaggio. Ecco, questo potrebbe non fargli tutto piacere, perché comunque è stato un attaccante importante. Però devo dire che l'eventuale valutazione di 25 milioni è congrua, quindi pure questo aspetto mi sembra risolvibile. Fabrizio? Sì, ricordiamo sempre che, come dicevate giustamente, è un solo anno di contratto, quindi anche un rischio per Milik eventualmente rifiutare la Roma, non andare poi eventualmente alla Juventus e star fermo un anno, perché oggi il Napoli non ha intenzione di utilizzare ancora Milik, ha preso Osimhen, Petagna, Mertens. Milik è fuori oggi dal progetto Napoli, quindi star fermo ancora per dei mesi nell'anno dell'Europeo non so quanto gli convenga. È per questo che la speranza della Roma e del Napoli è che alla fine Milik, nonostante il malumore che è palese perché si era promesso la Juventus, aveva un accordo con la Juventus che poi ha cambiato allenatore, ha cambiato tutto, anche strategia sul mercato. Oggi la speranza della Roma è che, alla luce di questa situazione che non conviene a nessuno in questo stallo, sia che Milik alla fine possa accettare questa grossa offerta anche economica, perché 5 milioni netti all'anno è una proposta che migliora anche il contratto di Milik. La Roma sta facendo di tutto il massimo possibile per un giocatore a scadenza di contratto, quindi è sicuramente un tentativo più che serio. Ecco, e poi Suarez cosa succede? Cioè, se questo triangolo va in porto, Suarez rischia di rimanere a Barcellona, sicuramente questo è un rischio calcolato che sta facendo emergere problemi grossi anche con Koeman in queste ore, perché c'è la preoccupazione totale del Barcellona. Anche che qualcuno che deve andare a diglielo, Esattamente, e c'è anche un'altra possibilità che può tornare, sicuramente se sta parlando anche Barcellona in queste ore, non dovesse andare alla Juventus, attenzione all'Ajax che aveva subito pensato a riprendere Luis Suarez, sembrava impossibile naturalmente essendoci la concorrenza della Juve, dovesse venire meno la Juventus, quella può essere una via d'uscita. Oggi però questo discorso di Dzeko sta bloccando chiaramente anche il mercato del Barcellona, che ha già preso Depay ma non può tesserarlo perché è ancora Luis Suarez in rosa. È un gioco a incastri che in un'estate come questa condiziona tutti. Vai, Pier. Sì, sì, è assolutamente. Hai capito proprio... che bel casino, Bel casino, ma anche divertente, diciamo. Nel senso che comunque poi alla fine. Ed è, se vuoi, anche un casino legato al fatto che le scelte, Fabrizio mi correggerà, le scelte poi della Juve, che in questa vicenda è, diciamo, un po' quella che controlla, è il punto di partenza, no? di tutta la trattativa. Nel senso che la Roma starebbe anche con Dzeko, al di là del fatto che poi si può stare dal punto di vista anagrafico il cambio Dzeko Milik, ma questa roba qui nasce dall'attaccante della Juve, cioè il tema è l'attaccante della Juve, e la complessità nasce anche dal fatto che la Juve comunque sta cercando profili diversi, perché sicuramente dal punto di vista delle caratteristiche tecniche, del modo di giocare con i compagni, Suarez e Dzeko sono due grandi attaccanti, tutti e due, ma sono due attaccanti completamente diversi, quindi insomma c'è molta confusione, ma del resto è abbastanza normale in un anno come questo, con pochi giorni, con pochi soldi per fare il mercato per tutti, con delle situazioni che sono complicate, insomma è un'epoca di incertezza, in qualche misura anche il mercato lo riflette. A proposito di tormentoni, Fabrizio, consideriamo chiuso quello per Lautaro Martinez. Oggi i quotidiani catalani hanno scritto si complica, del resto da 6 mesi scrivono che era fatta, e quindi possiamo anche immaginare che abbiano scelto questa formula per dire che ieri il procuratore ha detto che resta a Milano. Si complica. Sono stati ottimisti, no? Il discorso è chiuso, ma era già stato molto chiaro anche Piero Silvio nei giorni scorsi, dicendo che ormai è fuori mercato. Ma quello che l'Inter ha sempre pensato, facciamo discorsi ovviamente poco fa su Suarez, su Depay, sull'impossibilità di comprare senza vendere, il Barcellona non ha ancora venduto neanche un calciatore a parte Rakitic, quindi è a 1 milione di euro. quindi sicuramente oggi andare a comprare Lautaro Martinez per più di 100 milioni di euro è impensabile. L'Inter è sempre stata molto tranquilla dalla scadenza alla clausola in poi, quindi resterà l'Inter e appena finirà il mercato si inizierà a parlare di rinnovo. Ricordiamo sempre che Lautaro guadagna davvero poco rispetto ai compagni dell'Inter, ecco perché c'è bisogno di cambiare anche il contratto e chissà anche la clausola da 111 milioni, però certamente rimarrà in là. Vidal oggi è tornato a svuotare l'armadietto e l'aveva già svuotato ieri. No, scherzo, per dire che insomma, faccio mia, Pier, una battuta che ha scritto su Twitter Fabrizio Biasin, no? Gli manca solo la pizzata serale per salutare tutti e poi dovrebbe essere il momento giusto. Credo, Fabrizio, che ci siamo. Oggi abbiamo letto sulla Gazzetta anche che sarebbe Suninga a questo punto a rallentare perché non c'è spazio neanche da Piano Gentile per accoglierlo. Tanti, l'Inter ha 34 tesserati in questo momento, inclusi anche i giocatori che sono rientrati dai vari prestiti, sono tanti e soprattutto l'Inter deve vendere Diego Godin e questo è l'incastro. In queste ore bisogna risolvere la questione Godin col Cagliari che è pronto a prenderlo, non c'è ancora però l'accordo definitivo sulla questione economica, c'è il Ren che sta continuando a provare a inserirsi, quindi una volta bloccata l'operazione Godin l'Inter a quel punto potrà far viaggiare Arturo Vidal, ma l'operazione Vidal è praticamente pronta, è praticamente fatta, va sbloccata nel momento in cui si vende Godin ed è il solito discorso, è un'estate a incastri. In questa estate a livello economico si può fare mercato solo e soltanto così, ma vale per tutti. Ieri non so se hai visto il Chelsea, no Pier? Un discreto Kanté. Sì, sì, vabbè, ma non è una novità, è un grande Chelsea, è un Chelsea che torna, che può tornare protagonista, non dico che sia il favorito perché secondo me è comunque un outsider rispetto a Manchester City e Liverpool, però è una squadra che secondo me può fare molto bene, come credo che possa far bene anche l'Arsenal, pure l'Arsenal senza possibilità di titolo, il Chelsea lo mette un po' avanti, ma sì, ma Kanté lo conosciamo e il punto è che c'è questo piccolo dettaglio che si gioca in 11 e quindi bisogna capire un attimo Conte. C'è anche il piccolo dettaglio che per essere un giocatore fuori dal progetto Fabrizio è un po' troppo titolare. È un po' troppo certo. Titolare costa 70 milioni, eh? Esatto. Sì, ma infatti io credo che insomma sia complicata, cioè è una grande suggestione, però insomma in questo momento sarai sorpreso proprio per quello che dicevamo prima, per l'abbondanza di giocatori che ha l'Inter e per il fatto che le risorse sono tante ma non sono illimitate e in qualche modo anche la lentezza degli ultimi giorni della trattativa con Vidal mi fa capire, ma io sono d'accordo su questa idea che l'Inter si muove ma lo fa con giudizio. Perché onestamente non è che si può giocare appunto in 24, si gioca in 11 e in questo momento la rosa dell'Inter è particolarmente robusta tra giocatori che sono rientrati, giocatori che Conte con la sua qualità può anche secondo me rimettere al centro del progetto e giocatori che possono arrivare. Fabri? Ma sicuramente questa qui secondo me è la lettura più giusta. Oggi per l'Inter conta vendere, noi dobbiamo ricordare che ha davvero tantissimi giocatori, stiamo parlando di Nainggolan, stiamo parlando di Perisic, ma ce ne sono tanti, d'Albert, João Mario, la stessa questione che riguardano l'attacco, cioè chi deve andare via in prestito, sono tantissimi giocatori, quindi oggi conta vendere. Io credo che però l'operazione Kanté, per il discorso anche del cartellino, 70 milioni, un ingaggio da 8 milioni e mezzo più bonus, parliamo di un giocatore che in 2-3 settimane, perché ormai manca anche poco alla fine del mercato, tra 20 giorni è finita, sarà davvero difficile andare a prendere, quindi certamente verrà fatto qualcos'altro, ma prima conta vendere in un'estate in cui non compra nessuno. Secondo me questa è la vera complicazione per l'Inter, ma come per tutti. Sì, non prendete appuntamenti, Pier, non prendete appuntamenti dal 6 ottobre, sì, anche Conte, cioè non prendete appuntamenti dal 6 ottobre quando, se dovesse finire così, insomma, bisognerà certificare che l'Inter non ha preso Kanté. No, andrà a proposito di qualcuno che dovrà dirlo a qualcun altro, qualcuno dovrà dire a Suarez che resta a Barcellona e ad Antonio Conte che Kanté resta a Londra. Però sinceramente qui troviamo un discorso più complessivo sull'Inter, legato anche alle recriminazioni di Conte. Tu sai, io sono uno di quelli un po' per natura, sono forse democristiano, forse manderanno te, forse naif. No, io sono di quelli che pensa che Conte quelle uscite le abbia fatte puramente con spirito costruttivo, eccetera. Detto questo, penso anche che all'Inter si possa riprovare poco e mi pare che anche in questa, con tutte le difficoltà di questa campagna acquisti, l'Inter c'è sul mercato, sta facendo delle operazioni. Se arriva Vidal, come sembra molto probabile, prende un ennesimo fedelissimo di Conte. Sugli esterni ha veramente la possibilità di avere delle rotazioni molto virtuose per avere sempre giocatori presta. Sai come la penso, no? Cioè, penso che Conte si lamenta perché è incontentabile, perché è assolutamente adrenalinico, però in fondo il progetto sta crescendo. Il progetto sta crescendo, cioè non riconoscere questo sarebbe secondo me veramente ingeneroso nei confronti dell'Inter. Assolutamente. Cioè, l'Inter ha speso anche 40 milioni per Hakimi, va anche uno dei migliori esterni al mondo. Cioè, va bene. Ha preso un altro crack in quel ruolo lì. Vi devo fermare, grazie a Fabrizio Romano. Ciao Fabrizio. Grazie a voi, ciao ragazzi. Esperto di calcio mercato Sky, e adesso parliamo con l'uomo che ha messo la firma sotto il patentino allenatore di Pirlo. È una partita che sinceramente ci fa parecchio paura, perché affrontiamo una squadra che sta bene, che è prima nel loro campionato, che ha già giocato 13 partite di campionato, e noi abbiamo qualche problemino, abbiamo Rebic squalificato, abbiamo Leao infortunato, abbiamo la stagione che non è ancora partita, quindi una partita dentro fuori, fuori casa, diciamo dentro fuori come senza andata e ritorno, da giocare fuori casa non è senza dubbio il massimo, quindi siamo giustamente preoccupati. Non è Paolo Maldini che ha parlato così dello Shamrock Rovers, appuntamento per il Milan domani sera in Irlanda, partita secca dentro fuori, se dentro come ci auguriamo si va avanti nei plenari di Europa League, ma è Demetrio Albertini. Ciao Demetrio. Ciao, buongiorno a tutti. Uno dei pochi che ha assistito ieri all'esame di Andrea Pirlo, il re della bandeca, Capuano? No, sei migliorato. State parlando di padel. La bandeca è il colpo chiave del padel, perché la volema la vuole tagliata. Dai, ma di che stiamo parlando, Capuano? Guarda, mi ha raccontato prima Demetrio il suo weekend abbastanza movimentato, c'era dentro anche il padel, no Demetrio? Certo. Allora, ci racconti un po' come è andata ieri l'esame di Pirlo? Io non ho assistito perché non sono nella commissione, sono il presidente, quindi però dovevo... Hai firmato, diciamo, al buio. Ma avrei firmato non solo per lui, questi sono gli allenatori che dopo alleneranno le nostre squadre, hanno fatto il master, quindi hanno fatto un percorso di qualche mese, se non di qualche anno, hanno delle esperienze, quindi non solo Andrea ma anche gli altri. C'era Montero, c'erano altri giocatori o ex calciatori. Sì, abbiamo visto la sfilata. Guarda, in realtà c'è grande curiosità, Demetrio, intorno ad Andrea Pirlo. Scrive un amico, ma sul serio, di che cosa trattava la tesi di Pirlo? Allora, ci racconti in un minuto che idea ti sei fatto del Pirlo allenatore, poi vedremo sul campo a partire da domenica. Allora, io con Andrea sono molto amico e quindi lo frequento anche fuori dal campo. E quindi l'ho sempre sentito parlare con una gran voglia di poter studiare, diventare allenatore, perché vuole portare i propri concetti all'interno di una squadra di calcio, quindi non solo quello che lui sapeva fare in campo, ma i concetti sono diversi, no? Quindi tutta la situazione. Credo che quello che sarà Andrea oggi è molto più facile forse per lui partire, sembrerà strano, però partire dalla Juventus A, chiamiamola così, che dall'Under 23, perché i rischi dell'allenatore sono sempre gli stessi, sia se alleni i ragazzi, sia se alleni i grandi campioni. Sicuramente la società dovrà stargli molto molto vicino per qualche criticità, perché se lo sappiamo tutti gli mancherà un po' di esperienza. Pier? E io volevo fare in ritardo il mio radio tweet, che era... Hai ragione, l'abbiamo dimenticato. Ma non ti preoccupare, perché era proprio su questo, si ricollegava alla sigla e a quella Andrea di Chiellini che diceva Andrea per dire Pirlo. È chiaramente una dimostrazione di sincerità, cioè esiste una fratellanza, un'amicizia, una comunione con alcuni dei leader di questa squadra profondissima, e questo secondo me è uno dei temi. C'è un tema tattico, ovviamente è un allenatore che si è appena laureato, appena preso il patentino, quindi è ovvio che avrà una magnifica inesperienza, per citare il ministro Madia di qualche anno fa, e se questa inesperienza sarà magnifica anche in campo lo scopriremo presto. Certo, questa è una chiave fondamentale, cioè la chiave del rapporto con i senatori della squadra secondo me è fondamentale, perché è una variabile che può essere estremamente positiva e che può accelerare molto secondo me il rendimento della squadra, la capacità di riflettersi e di comunicare con tutta la squadra, o alla lunga può diventare anche un problema. Quindi secondo me questa qui è una partita nella partita. Certo, questa confidenza mi sembra mi sembra importante. Io credo che la Juve abbia fatto questa scelta per quello che Pirlo è stato da calciatore, per la sua intelligenza proprio di uomo, e anche perché è uno di casa, è uno di famiglia, e probabilmente con Sarri non c'era questo stesso tipo di comunanza di idee, per cui sono particolarmente curioso. Poi, sì, poi però la domanda è se sia tutto positivo, ad esempio, che un ex compagno ti dia del tu, non so, Demetrio, che insomma, vabbè, qualche spogliatoio appunto, l'hai visto. Il tu assolutamente non è né positivo né negativo, quindi quello è una questione di rispetto. Che sia una difficoltà, posso immaginare di sì, penso di sì, perché io devo dire che ho avuto degli allenatori, almeno tre con cui ho giocato insieme, e con un paio qualche problemino l'ho avuto, però il tu mi ha permesso di poterlo affrontare con intelligenza all'interno dello spogliatoio del mister, no? Se c'è qualche criticità personale, però mettendo sempre davanti quello che è l'interesse di una squadra e della società. Avete detto benissimo voi, Andrea conosce tutto l'ambiente, quindi non è solo il tu, me lo diceva proprio ieri, sai, arrivare lì a Vinovo, conosco dal massaggiatore tutta la società, cosa ho fatto io da allenatore, da giocatore, adesso vederli gli altri aiutarmi come allenatore. Il problema vero ed è reale è questo tipo di rapporto che il calciatore tante volte non ha la mentalità dell'allenatore, e quindi qualche scelta, magari anche non solo personale ma anche di squadra, tante volte si può ritagliare anche la licenza di poter parlare di più con l'allenatore, e questo secondo me sarebbe sbagliato. Demetrio, hai visto Maldini con la maglia numero 3? Bella. Quella di quest'anno, intendo. Bella, a me è venuto bella. Un tuffo al cuore, sono tornato al liceo e all'università, sei tornato in campo. Assolutamente, però credo che è suggestiva, nel senso, poi il 3 non la vediamo più da quando non gioca più Paolo, quindi sinceramente sì. Gli altri numeri girano, ma quella no. Però Paolo, l'abbiamo sempre detto, quanto ami questa società e quanto sia importante per quanto riguarda quelli che sono i valori. Poi, sta crescendo? Perché parlavamo di Pirlo che dovrà crescere. Sì, è normale, sta crescendo. Una persona, lo reputo molto intelligente, quindi una persona intelligente che sul campo poi apprende, no? È sempre meglio di quello del giorno prima, e quindi è normale che sta crescendo, reputandolo molto intelligente. Poi dopo, quello che le difficoltà, io credo che in tutti i ruoli la cosa più importante è la gestione delle negatività, dei momenti negativi, perché quando le cose vanno bene è molto facile sia fare l'allenatore che fare il dirigente, tutto. Gestire le criticità credo che sia la cosa più difficile. Pier? Sì, assolutamente. Io penso che stia crescendo anche in termini di, uso volutamente una brutta parola, in termini di potere, cioè di ma un potere che gli deriva dal fatto che sta facendo delle scelte sane, delle scelte congrue, che sta cominciando a mettere sul piatto in maniera tangibile, concreta, tutto il suo carisma e la sua intelligenza, che fino a un po' di tempo fa si vedeva fino a un certo punto nel lavoro da dirigente, adesso si comincia a vedere la sua mano. Poi chiaramente chi è a Milanello tutti i giorni questa cosa la potrà confermare con mille dettagli e mille aneddoti in più, ma Maldini è una leggenda per tutti, figuriamoci nel Milan, figuriamoci quando deve parlare a un ragazzo, a giocatori giovani, sono tanti giocatori del Milan, o quando deve andare a convincere qualcuno a indossare quella maglia e a costruire anche semplicemente con la sua presenza uno scenario ideale di un Milan che è stato e che probabilmente tornerà a essere da qui a poco. Insomma, cioè Maldini ha questo vantaggio, ma mi sembra che stia anche acquisendo adesso una capacità manageriale, gli stiano dando finalmente gli strumenti per poter tirare fuori il meglio. Insomma, in questo momento tutto va a gonfie vele, poi ovviamente c'è il giudice supremo che è il campo, e quindi poi vedremo se Tonali sarà un crack, se Ibrahimovic sarà il giovanotto che continua a fare la differenza, se Donnarumma rinnoverà, cioè ci sono tutta una serie di sé, sì, però ad oggi mi sembra veramente un grande mercato. Guarda. Un grande mercato e una sua firma molto precisa in questo grande mercato. Prendo dalla Gazzetta di oggi, Demetrio Albertini, aperte virgolette, mi vedo in Tonali, chiuse virgolette, no Demetrio, che non è male come investitura. No, ma ho voluto scaricarlo un po' di responsabilità perché tutti vedevano Pirlo, invece Andrea che per me tu è uno dici, dei più ne, grandi. Ne scelgo uno scarso. Prendi un po' più, scendi un po'. No, scendi. Perché a parte ho anche detto, se leggi bene, perché tu leggi solo i titoli. Sì, sì, assolutamente. Naturalmente, però ho spiegato che non amo tanto le etichette, i paragoni. A un certo momento hanno messo l'etichetta del nuovo Golden Boy, ma assolutamente lungi da me pensare di arrivare. Ognuno ha le sue caratteristiche, poi il calcio è cambiato, mi rivedo in lui solo per la posizione, per alcune caratteristiche che alla fine sono molto simili alle mie. Poi l'auspicio è quello che Tonali, come tutti gli altri giocatori che arrivano al Milan, cose che ho visto poco negli ultimi anni, che per loro possa essere un punto di partenza il Milan e non un punto d'arrivo, perché vorrebbe dire che devono ritornare grande questa società. Eh sì, anche perché da questo punto di vista Tonali è un grande investimento con apertura sul futuro, ed è anche un grande segnale che ha lanciato la proprietà ieri. Ieri Maldini l'ha sottolineato. Al di là di quello che è da calciatore, ovviamente tutte le caratteristiche, e il fatto che Demetrio ci si riveda, insomma, al di là del fatto che i paragoni non piacciono a lui e nel mio piccolo neanche a me, però è un'ulteriore conferma, un ulteriore endorsement, è un acquisto che ha un valore simbolico, perché vuol dire che il Milan è tornato ad avere la capacità di convincere i giocatori che hanno tanto mercato, che ha una filosofia italiana che sappiamo può rappresentare una marcia in più. È stata per esempio una marcia in più secondo me negli anni dei primi scudetti della Juve, adesso poi magari quella vecchia guardia di italiani della Juve sta cominciando ovviamente a diventare un po' più anziana, ma quanto hanno pesato, quanto ha pesato quell'identità nella ricostruzione del ciclo vincente della Juve, secondo me tantissimo, quindi io penso che siano tutti segnali positivi. Poi ovviamente la parola aspetta al campo, probabilmente non si deve neanche esagerare con le aspettative, perché comunque il Milan oggi sta per giocarsi il preliminare di Europa League, quindi insomma non è che puoi pensare che fra 6 mesi sia in corsa per lo scudetto. Poi se lo sarà una bellissima sorpresa per i tifosi rossoneri. Sicuramente ha fatto un passo avanti e salirà in classifica, tanto poco lo scopriremo. Sì, di sicuro. Allora, fatemi ringraziare Demetrio, che restituisco i suoi impegni di giornata. Grazie Demetrio. Ciao a tutti. Ciao. Grazie Demetrio Albertini. Ciao. Saluto anche te Pier, perché vado ad aprire il Bar Tour. Ah beh, oggi senza di te. Qualità. Io sono a Ponza, ultimo bagno dell'anno. Ti abbraccio, amici. Però ti ascolto. È anche il 16 settembre, insomma. Voglio dire, c'è chi ha finito prima di te. Allora, c'è la borsa, poi Bar Tour. Il problema della Juve non è il centravanti, Dzeko, Suarez. La vera incognita è l'allenatore. Maestro Pirlo. Nessuno nasce imparato. Tutti convocati, anche su WhatsApp. Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Un condensato di felicità e di buon umore. Una volta era una rottura pazzesca. Off Topics è quello che fa per voi. Ragazzi, se lo dice Mastrota. Torno Off Topic ogni sabato alle 21 e su tutte le piattaforme social. Sì, vabbè, sarà pure Mastrota, però ho sbagliato il nome, ha detto Off Topics. Stai zitto che non se ne accorge nessuno. E vedete che Spillacci in qualche maniera riesce a sgusciare via, calibra poi bene su De Napoli, da questi a Vialli verso Giannini, inserimento di Giannini, colpo di testa, Vialli, tiro! Tanti le chiamano storie di sport, per me sono storie della nostra storia. Sono Dario Ricci e vi aspetto ogni sabato alle 22.30 e ogni domenica alle 16.30 a Olimpia per raccontarvi tutte le sfide tra gli dèi dello sport, naturalmente qui su Radio 24 e su radio24.it il podcast e i contenuti extra di ogni puntata. Convocati. casa mia. Addirittura un giovanotti d'epoca, carissimo Marino Bartoletti, ciao. Sai che il direttore artistico non si nega e non vi nega nulla. D'altra parte i tre filosofi di riferimento di Valentino, perché oggi parleremo di Valentino, certo, sono Vasco, Lorenzo e il giovane Cesare Cremonini, che è la new entry. Mi sembrava, o almeno sembrava il direttore artistico, che fosse, come dire, una colonna sonora pertinente, e ne affido il giudizio al mio socio, oltre che a te, a tutti gli amici che ci ascoltano, naturalmente. Socio Leo Turrini, convocatissimo anche lui, stiamo tirando sulla Claire. Ciao Leo, ancora senza padrone di casa per una settimana, Leo, poi torna a casa. Lo so che ci sono queste cose, ma io sono a proposito di colonna in coda sulla Piero Cormano, e tu maestro Capuano vorrai certamente chiedermi perché. Perché sei in coda sulla Piero Cormano? Perché ci sono Vettel e Leclerc che vanno in retromarcia, e vanno in retromarcia al volante due panda rosse, e uno dice perché vanno in retromarcia? Perché hanno preso in parola il nostro grande presidente della Ferrari, John Elkann, che in attesa del passaporto italiano di Suarez, è vero, ha detto che dobbiamo pensare al 2022. Quindi è inutile come ferraristi che noi ci illudiamo di poter essere un filo più veloci nel 2020 o anche nel 2021. Andiamo piano per seguire le indicazioni del padrone. Ora possiamo andare avanti in questo modo, dato che siamo in coda sulla Piero Cormano. Noi ci accontenteremo anche di andare normale. Capuano è una cosa di una tristezza infinita. Veramente. Sai, una cosa tipo il fatto che Tiki Taka non sarà più condotto da Pardo. Gliel'abbiamo detto settimana scorsa. Gli italiani non si capacitano. Io e Mario Bartoletti abbiamo lanciato insieme questa raccolta di firme, ne abbiamo già raccolte 22. Ci sono 22 italiani che vogliono che Pardo torni al timone di Tiki Taka. Tu Capuano, se sei un uomo, annuncia in diretta che aderisce alla petizione. No, ma io l'ho già detto settimana scorsa, la cosa, Marino, che mi sorprende è che settimana scorsa erano 23. Non so perché si è tornati indietro. La tua firma è stata giudicata irregolare. Hai capito? Giovanni, cosa mi addolora del Gran Premio? Cosa mi addolora del Gran Premio domenica scorsa? Quando ho visto attaccato nel sedere della macchina il cartello trasporti eccezionali, come quando accade per i camion che trasportano i grandi motoscafi, e l'ha detto anche Onda Verde al Mugello, veicoli lenti. Che tristezza, ragazzi. No, ma la differenza è che i trasporti eccezionali non te li fanno superare, invece la Ferrari la superavano tutti domenica. Però noi ci stiamo consolando con le battute, ma è veramente, io lo considero un tradimento questa stagione della Ferrari, lo dico perché insomma poi siamo tutti un po' innamorati della Ferrari, così come della nazionale. Fu un tradimento la nazionale che non andava al mondiale nel 2018, è un tradimento la Ferrari che non si presenta di fatto come quest'anno a una stagione, o si presenta travestita da altro. Però Marino, Purtroppo è vero, maestro Capuano, infatti vorrei raccontarti un aneddoto. Sì. Infatti io sono in coda qui, davvero formato. Sabato scorso sai che la Ferrari ha celebrato in Piazza della Signoria a Firenze i 1000 Gran Premi, un evento che storicamente rimane al di là del presente, no? Allora io sono andato a fare quattro chiacchiere con l'amministratore delegato del Cavallino, tra l'altro un mio amico, si chiama Luca Milleri, no? E gli ho detto quello che il maestro Capuano ha appena finito di dire, ma questo è un tradimento, cioè ogni Gran Premio andiamo più piano, no? Sembriamo non la Ferrari, ma un gambero rosso, e non il gambero rosso della cucina. E devo dirti che Camilleri, credendo di incoraggiarmi, ha detto, ma sai Leo, che ci chiamo se tu, solo quando si tocca il fondo poi si inizia a risalire. E la mia risposta è stata, sì, ma io e Bartoletti pensiamo che voi abbiate iniziato a scavare, perché qui tutte le volte diciamo, Ferrari ha toccato il fondo. E mi viene in mente una volta che io e Marino eravamo là con Enzo Maiorca, il famoso, ti ricordi Marino? Il famoso re delle immersioni in apnea, no? Che andava giù 110, 120, 130 metri. E Marino mi disse una volta, perché poi si annoiava lì sulla tacca, ma sto Maiorca toccherà pure il fondo, no? e invece la Menorca continuava a scendere. Ecco, questa è una Ferrari in apnea che ricorda Maiorca e Maiol. E adesso mi taccio perché tanto sono in coda, prego. No, io siamo stati noi quella volta che ormai affogavamo Maiorca, ti ricorderete tutti, altro che Bottesini. Eravamo io e Turrini incautamente sul posto. Ma scusami, esatto. Giovanni, ti abbiamo troppo interrotto. No, io vi ascolto volentieri. Mi viene in mente cinicamente un pensiero brutto, e cioè se siamo arrivati ottavi e decimi come Ferrari con in pista 12 macchine, per arrivare proprio al fondo bisogna arrivare undicesimi e dodicesimi. E poi probabilmente si può cominciare a risalire. Però posso far sentire al direttore artistico questa cosa che ci ha detto ieri Giacomo Agostini, ieri qui in diretta, e parlavamo ad esempio di quanto è bello per un grande campione veder vincere i suoi allievi. Adesso io non credo che Vettel possa considerare Leclerc un suo allievo che lo supera, Vettel semplicemente quest'anno non va. Però ci è venuto in mente, pensando a Valentino Rossi, da cui siamo partiti. È stato battuto dai suoi allievi, quindi uno dice: se non li preparavo così, forse avrei vinto io. Ma Rosi, che è un grande campione, quando vede gli alunni che vanno più veloci, no, Giacomo? Ti dà un po' fastidio perché tutti vogliamo vincere, insomma, inutile che siamo, essere buono lì è impossibile, nel senso che rischi la vita, dai tanto per fare questo sport, è la tua grande passione, il tuo grande amore, quindi è logico, fai tutto per vincere, insomma, quindi allora, e quando poi ci arriva il ragazzino che ti porta via il trono, dà fastidio. Marino, questa roba che si è felici perché hanno vinto quelli dell'Academy è buona solo per riempire due pagine di giornali oggi. Allora, no? Guardi, io che come Leo conosciamo Tazio Nuvolari da quando correva in moto con la Bianchi, e quindi puoi immaginare da quanto tempo conosco Agostini e le sue, come dire, simpatiche malizie. C'è del vero naturalmente in quello che ha detto. Però guarda, al di là delle due pagine di giornale, al di là naturalmente del chiasso mediatico che i due podi bellissimi di domenica scorsa, e porca miseria ci manca qualcuno in quel podio, ci abbiano resi felici, però effettivamente c'è una lettura non banale di quello che sta accadendo. Noi fino a un anno fa ci chiedevamo seriamente cosa sarà del motociclismo dopo Valentino, e a maggior ragione cosa sarà del motociclismo italiano dopo Valentino. Beh, la cosa curiosa è che è lo stesso Valentino che sta costruendo il dopo, credetemi, con una generosità incredibile. Io l'ho visto quel ranch, che è l'evoluzione della famosa cava voluta a suo tempo per il suo bambino da Graziano Rossi. Ci sono andato ancora poco tempo fa. C'è un entusiasmo palpabile, c'è una bella gioventù motociclistica italiana che sta galoppando, già lì batticchiano, e Valentino, ma questo non può trapelare naturalmente dalle veline che escono dal ranch, però effettivamente lì si vede che c'è un nuovo talento ed è molto bello, sai, mentre tutti ci chiedevamo perché Valentino continua a restare in gara facendo torto alla sua storia eccetera eccetera, in realtà domenica non ha fatto torto a quella storia, perché ha dimostrato un entusiasmo verdissimo e straordinario, fra l'altro ha battuto, se vogliamo, il suo compagno di squadra. Beh, è bello vedere che questo grande maestro abbia voluto trasmettere in qualche modo, credetemi, con un entusiasmo genuino quella che è la sua scienza motociclistica. E guarda quanto gli sono devoti, quella foto ideale che abbiamo avuto dall'alto mentre abbracciava contemporaneamente, vi ricordate, Bagnaia e Morbidelli, che di fatto lo avevano aspettato per avere la loro pacca. Non sappiamo se aveva la lacrimuccia sotto al casco Valentino, no. Ma il gesto è stato meraviglioso dal punto di vista sportivo, anche se credo si sarebbe tenuto quei punticini in più per una classifica mondiale totalmente folle, quest'anno. Non è detto che non possa vincerlo questo mondiale, e sarebbe veramente Marino paradossale. Qual è stato il più bel gran premio di Formula 1 di quest'anno? Quello senza le Mercedes. I gatti se ne sono andati e i topi hanno ballato, no? Il mondiale di MotoGP quest'anno consente a tutti di ballare. Io, con tutto il bene che voglio a Valentino, non credo che possa ambire al titolo, può ambire sicuramente un bellissimo piazzamento e, perché no, anche a qualcosa di importante sul piano dei gran premi individuali, ce ne sono alcuni che sono a casa sua. Però veramente ci sono almeno 5 piloti, e ci aggiungo anche Morbidelli, che possono sicuramente vincere questo mondiale. Sì, dopo la noia degli ultimi anni, lo diciamo sinceramente, perché è bello vedere Hamilton, è bello vedere Marquez, è bello vedere, ma in tutti gli sport, questa è l'epoca dei dominatori. Quando non c'è il dominatore, poi si torna a divertirsi. No, ma Capuano! Sì, tranne che in Formula 1, perché no, la Ferrari Capuano, non vince mai. No, Capuano, tu devi avere il coraggio che hai sempre mancato a gente. E devi dire, qui bisogna fare come fecero nel ciclismo, c'eravamo io e Marino alla conferenza stampa, ormai quasi un secolo fa, quando gli organizzatori del Giro d'Italia dissero ad Alfredo Binda: guarda, noi ti diamo il premio per la vittoria e tu stai a casa. e venne fuori uno dei più bei giri di cui si abbia memoria. Le moto, dispiace perché Marquez si è fatto male in un incidente, ma senza Marquez stiamo vedendo una stagione meravigliosa, no? L'ha detto appena poco fa il mio maestro Bartoletti, addirittura 5, 6, forse anche di più centauri che possono aspirare al titolo. In Formula 1 la mia proposta è questa, visto che John Elkann continua a dire che dobbiamo aspettare il 2022. Benissimo, allora facciamo una colletta, andiamo da Hamilton, perché comunque Bottas lo si potrebbe anche battere, Bottas è un tale maggiordomo che lo si potrebbe anche battere. Andiamo da Hamilton e gli diciamo, guarda, tu batti il record di vittorie di Schumacher, ma gliene manca solo una, eccetera. Poi noi ti paghiamo, tu stai a casa, prendi gli stessi quattro, anzi ti diamo anche un bonus, anche qualcosa come fa il governo adesso per tutti, ti diamo Leo, anche un il bonus, guaio è che poi lo vince Bottas il mondiale, eh. No, no, io sono convinto che dice Bottas Marino che non è così, sai che i finlandesi perché vincono poco in Formula 1, no? No, Leo, in Formula 1 c'è stato un solo grande finlandese, avete visto anche domenica il Mugello, 20 anni dopo il suo debutto su quella pista, staccare la Ferrari, KR7, mio fratello, amico, Kimi Raikkonen, ma io non voglio dire facciamo cose, no, diciamo Hamilton stai a casa, non c'è mica nessun problema. Con Bottas si può fare, perché Bottas ha questo DNA del maggiordomo, no? Mai avete visto al Mugello, 3 partenze, ne potevano anche garantire una quarta e lui perdeva lo stesso. Sì, sarebbe arrivato secondo uguale. Allora, pensi, ma noi dobbiamo seguire questa linea, caro Capuano, tu che sei più coraggioso, allora, di gente, ti devi fare. Lanciamo questa raccolta di firme. Leo, però ti devo fermare un secondo perché c'è il traffico, c'è Ferronato che mi fa dei segni bruttissimi dalla regia. Allora, il traffico, poi lanciamo la raccolta di firme per far pagare Hamilton per restare a casa. Ok? 800 24 00 24. Hamilton contro nessuno, perché noi non tifiamo per Hamilton, ma quando era Schumacher contro nessuno, che noi italiani tifavamo per Schumacher, andava bene. Quindi da qualche parte ci sarà qualcuno che invece gode, guarda e tifa per Hamilton. Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati. A me piacerebbe tanto vedere Hamilton su un'altra macchina, anche perché lui è bravissimo, ma voglio vedere come risolve i problemi con un'altra macchina. È comodo correre con la Mercedes, con la macchina migliore. L'unico avversario è il tuo compagno di squadra. E però hai visto, Leo, che i nostri ascoltatori, almeno qualcuno, è molto più sportivo di te, eh? Cioè noi dobbiamo fare la raccolta di firme per mettere fuori Hamilton, no, solo perché non è della Ferrari. No, io vorrei invece rispondere al primo interlocutore simpaticissimo. Sportivo. Perché non tutti hanno memoria, no. Schumacher con la Ferrari ha vinto anche dominando. Schumacher con la Ferrari ha perso 3 campionati del mondo all'ultima gara e ne ha vinti 2 all'ultima gara. La differenza è questa, che non riguarda Hamilton, che è un grandissimo, che negli anni Mercedes, dopo 2 Gran Premi, sappiamo già che non ce n'è per nessuno. Cioè, se no falsifichiamo la storia. Cioè, Michael ha avuto anche stagioni in cui andava a spasso. Però, ripeto, 97, 98, 2006 ha perso il titolo all'ultima corsa, 2000, 2003 l'ha vinto all'ultima gara, quindi cioè, c'è una bella differenza. Questo non toglie nulla alla grandezza di Lewis, che io considero tra i top driver di tutti i tempi. Io e Marino, quando andavamo a cena con Nuvolari e Varzi, mi ricordo che Marino una sera disse, perché lui ha queste capacità sciamaniche, ma un giorno verrà un ragazzo originario dei Caraibi e riscriverà la storia. È vero, io lo riconosco, sì, sì. Non tolgo niente ad Hamilton, però... Ma io parlavo di Bob Marley. Può darsi, perché tu mi ricordo quando passavi il cannone là, però per la verità me lo passavi, non era rimasto nulla. Se vogliamo dirla tutta, Marino, il meglio se lo teneva per sé. È sempre stato lucido Marino. Mi spiace perché abbiamo due minuti, non di più. Invece io volevo chiedere, ma lo faccio lo stesso, a Marino una riflessione su questa cosa. La FIA non investigherà sulla maglietta di Lewis Hamilton, quella mostrata dopo il Gran Premio del Mugello, però lo ha fatto nella maniera, secondo me, un po' pelosa e ipocrita di sempre in queste vicende. E cioè ha detto andranno emanate delle linee guida, mentre era tutto chiarissimo a tutti. E a me piacciono invece gli sportivi, ne stiamo vedendo tanti di esempi in queste settimane che prendono posizione con forza. Guarda, ben poco da aggiungere a quello che hai già detto perfettamente, caro Giovanni, perfettamente. Posso soltanto dirti che la persona ormai anziana e avvezza a tutte le cose che lo sport ha dimostrato e non ha dimostrato, questo gesto nel mondo dei ricchi di Hamilton è uno dei gesti che passerà alla storia, secondo me, non meno del pugno alzato di Carlos Smith alle Olimpiadi del 1968. Applausi ad Hamilton, applausi a chi si interessa anche agli ultimi, pur arrivando prima. Sì, lo stanno capendo un po' tutti, compresa la NBA che ha dovuto piegarsi alla logica, insomma, dell'idea che il mondo contaminasse quella bolla. Poi Giovanni, mi sta bene anche quelli che non si inginocchiano, mi sta bene anche quello, perché ognuno ha diritto al libero arbitrio e esprimere come vuole la propria solidarietà. Però il gesto di Hamilton, che è il primo che poteva risparmiarselo, va sicuramente lodato, applaudito. Dobbiamo chiudere, grazie Marino. Grazie a voi. Ciao, ciao. Arrivederci, ragazzi. Ciao, Leo. Ciao Leo, buon ritorno a casa. Sulla Piero Cormano dobbiamo chiudere, il Bar Tour torna martedì prossimo, noi invece torniamo domani dopo il GR delle 14. Io ringrazio Lorenzo Nespoli in redazione, Gianmarco Ferronato in regia e vi rinnovo l'appuntamento domani alle 14. Ciao. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta! Ci vediamo domani, enjoy! Saluti!